Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Gli asili nido comunali in Italia coprono solo il 50% delle richieste delle famiglie. Per una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano può essere difficile rientrare nelle graduatorie. Ci si rivolge allora alle strutture private con costi che sono spesso molto difficili da sostenere e in ogni caso più salati rispetto alle rette previste dal settore pubblico correlate al reddito. Due importanti associazioni dei consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Codacon, nell'ambito del progetto Famiglie e Consumi, come vivere meglio in tempo di crisi, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno rilevato i costi degli asili nido e hanno scoperto molte sorprese. In alcuni casi, in alcune città d'Italia, si tratta di migliaia di euro l'anno. E intanto guardiamo anche in questo campo a quello che succede nella brava Germania, dove è in vigore dal 1 agosto la riforma Un posto all'asilo per ogni bambino nato. Salva Danaio dedica una puntata a questo tema chiedendosi quanto può costare oggi in Italia mandare il proprio figlio al nido e quali sono le possibili soluzioni per risparmiare. 800 24 00 24 è il numero verde per tutti voi all'ascolto, per mamme e papà che ci vogliono raccontare come si sono organizzati in casa qualora i nonni non fossero disponibili, perché come sapete bene l'alternativa più ricorrente è evidentemente e più economica evidentemente è questa. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Ci potete scrivere su Facebook all'indirizzo, al profilo salvadanaio-radio24 e anche su Twitter, dove già ieri hanno cinguettato nei nostri confronti alcuni ascoltatori. Giuseppe ci ha scritto: nella periferia romana un asilo nido costa anche 450 euro al mese. Un altro ascoltatore o ascoltatrice, perché il nome è sintetizzato, le soluzioni sono i nonni per chi li ha, o i figli o il lavoro. E un altro ascoltatore ancora ci raccontava dell'esperienza appunto di un nido di Milano. Si chiama la catena Happy Child, probabilmente qui si possono appunto anche insegnare le lingue ai bambini, ma sono 690 euro al mese comunque. L'orario di disponibilità è fino alle 16, per cui tante possibilità per le famiglie, ma anche tanti problemi per chi queste risorse non le ha. Allora intervenite pure e raccontateci un po' come vi siete organizzati in casa nostra, in casa vostra. Metteremo a disposizione appunto delle vostre testimonianze, i commenti delle nostre ospiti di questa mattina. Casualmente abbiamo tre donne quest'oggi. Io ringrazio e saluto Livia Zollo, responsabile progetti Movimento Difesa del Cittadino, che ci darà qualche dettaglio in più rispetto al la rilevazione condotta con la collaborazione anche del Codacons. Dottoressa Zollo, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e grazie ad Angela Nava, presidente del coordinamento Genitori Democratici. Presidente Nava, buongiorno e benvenuta anche a lei. Buongiorno a voi. E poi andiamo ad un'esperienza sul territorio. Doriana Maria Mason, presidente di Assonidi Padova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. E allora, però, prima di tutto questo, come sempre, tutte le mattine, diamo un'occhiata a quello che sta succedendo sui mercati finanziari. C'è da immaginare che tra oggi e domani la tendenza sarà questa. Situazione questa mattina negativa perché le borse subito sono partite con prese di profitto dopo i rialzi di ieri. Adesso invece si stanno risollevando, ma la seduta sembra abbastanza piatta. Probabilmente il mercato aspetta di capire domani la Banca Centrale Americana che cosa annuncerà relativamente a questo tapering, a questo programma di riduzione progressivo degli stimoli monetari che fino a questo momento ha garantito all'economia americana. 85 miliardi di dollari al mese di acquisti di titoli di Stato, di bond, di mutui cartolarizzati, e questa cifra si ridurrà gradualmente. Di quanto si ridurrà il mercato scommette su questo. Nel frattempo appunto oggi segno meno prevalente sulle borse del vecchio continente: Parigi meno 0,32%, Francoforte meno 0,18%, Londra meno 0,31%, Milano adesso è positiva più 0,01% dopo una partenza che invece l'aveva vista la peggiore piazza d'Europa in avvio quest'oggi. I titoli peggiori: Buzzi Unicem meno 0,96%, STM meno 0,8%, Finmeccanica meno 0,7%, tra i bancari il peggiore è Monte dei Paschi che perde lo 0,6%. Invece hanno ripreso a correre molti titoli, più deboli stamattina Dia Sorin più 1,67%, Mediaset più 1,23%, Saipem in rialzo di un punto, Atlantia più 0,8% e lo spread fra BTP e Bund ritorna sotto i 250 punti base. Per la borsa è tutto. Il tema di oggi: asili nido, comunali insufficienti e il privato quanto costa? Ora basta con tutte queste stupidaggini! Non voglio finire dentro un manicomio! Se continuo così mi verrà un infarto! Voi non lo capite, siete ancora dei picchiatelli! Mescolate lo stomaco con l'intestino, dondolate, dondolate! Se al cuore gli girano i ventricoli si rischia l'infarto! Ehi voi, continuate a saltare! L'importante è che non dimenticate di respirare! Ho visto dei bambini crollare giù stecchiti! Uno diceva, che diavolo ti prende? L'altro, niente, ho dimenticato di respirare! Come vedete, respirare è indispensabile! Attenti all'infarto! Chi siete voi? Vi piace? Vi piace questa casa? Beh, come va il colesterolo? Joy finirà davvero in un manicomio. Beh, ma che fai? Mi strappi la faccia? E tu che vuoi? Ah, lei mi strappa la faccia e tu mi dai un pugno! Non mi sono mai divertita tanto in vita mia! Non so quanto vi possa interessare questa notizia, questo è in assoluto uno dei miei film preferiti, forse il numero uno era ancora il mio preferito, comunque è della serie Senti chi parla, il famoso film con John Travolta, il tassista. Questo è l'episodio in cui il primogenito, appunto Mickey, va all'asilo, c'è questa situazione in cui il maestro appunto dà un po' in escandescenza, un po' nervoso, chiaramente nelle scuole nel nostro paese non è così, il problema è riuscire ad entrarci, soprattutto in un nido comunale. Vedo già che ci state tempestando di messaggi, segno che è un tema che vi sta molto a cuore, cerco di leggerne qualcuno. Gli asili nido comunali costano al comune ma sono un servizio per chi non si può permettere il privato, ma le amministrazioni preferiscono mantenersi dirigenti a 90.000 euro l'anno. Non avevo letto la seconda parte, direi che stamattina lascerei anche, accantonerei molto rapidamente queste polemiche, andiamo invece ai temi appunto che stanno a cuore le famiglie, come si organizzano in casa per appunto i loro bebè. Livia Zollo, responsabile progetti, Movimento Difesa del Cittadino, ci racconta che cosa avete scoperto in questa rilevazione che, lo ribadiamo, è finanziata dal Ministero del Lavoro, e poi che cosa succede? Questi dati li trasmettete al Ministero del Welfare? Assolutamente sì, noi abbiamo rilevato anche tanti altri servizi legati ai trasporti, alla sanità, ora oggi ci concentriamo sugli asili nido, ma abbiamo veramente rilevato di tutto e più grazie alle nostre strutture territoriali, perché volevamo aumentare un po' la consapevolezza e fornire degli strumenti utili per affrontare la crisi economica, perché il progetto e l'idea del progetto nasce proprio dal fatto che sempre meno si riesce a risparmiare. Una famiglia italiana su tre si è trovata in difficoltà ultimamente a sostenere alcuni costi, e c'è anche chi si è trovato in gravi situazioni perché il disagio magari è legato all'improvvisa perdita di reddito, la disoccupazione di un familiare, quindi il periodo è veramente critico e soprattutto per le donne, visto che l'entrata nell'asilo nido viene a inficiare la posizione della donna nella famiglia. Certo. Noi quello che abbiamo scoperto dalla rilevazione in 29 città monitorate è che appunto non c'è la possibilità per tutti di poter iscrivere il proprio bimbo al nido, soprattutto privato, perché i costi sono altissimi. Si parla intorno ai 6.500 euro per 11 mesi. Ecco, mi stavo chiedendo quale tipo. Che non tutti hanno, no, tra l'altro, sedere. La prima considerazione che balza all'occhio è che tipo di servizi possono offrire in una struttura in cui si deve pagare 6.500 euro per 11 mesi. Io mi rendo conto che è, come dire, un'assistenza molto delicata quella di cui hanno bisogno i bambini appunto in questa fascia d'età, però che cosa utilizza? Non so, biberon d'oro, che caratteristiche hanno anche queste strutture? Assolutamente, anche perché di tutti questi strumenti, biberon, pannolini, è il genitore che deve fornire alla struttura questi oggetti, diciamo, personali, sia per il pubblico che per il privato. La differenza non riusciamo a capirla dov'è. Tra l'altro il nido pubblico garantisce una maggiore qualità perché sottoposta a maggiori controlli, quindi c'è anche questa differenziazione, si paga molto spesso di più avendo dei servizi più scarsi rispetto al pubblico, che invece lo garantisce per i maggiori controlli. Ho mandato mia figlia per 2 anni al nido per un totale di 9.200 euro, era un nido a Monte Soriano, nonostante la spesa, lo rifarei, sono delle scelte, ma io mi rendo conto, non è che stavamo parlando della qualità di certe strutture, però la cifra è molto alta, adesso non so se si tratti di 9.200 euro in 2 anni, però insomma 4.500 euro annuali. Ci sembra appunto una cifra molto importante. Qui però si tratta di una scelta specifica che lei si poteva permettere, una struttura privata. Parliamo di quelle famiglie che si trovano in situazioni più normali, quelle situazioni nelle quali durante il mese bisogna fare anche delle scelte, o c'è il mutuo o c'è la retta dell'asilo, perché qua qualche volta le alternative non ci sono. E qua naturalmente molti ascoltatori che chiaramente ci raccontano, siamo costretti a rivolgerci ai nonni, per fortuna che ci sono. E c'è chi ci scrive anche: nonostante abbia la disponibilità dei nonni, mandiamo i nostri figli al privato, siamo molto contenti dell'insegnamento, contrariamente a quello riscontrato appunto nella scuola pubblica, carente di tutto. Anche qui poi delle generalizzazioni che non vanno bene. Angela Nava, presidente del coordinamento genitori democratici. Sì, generalizzazioni che non vanno bene, non vanno bene, perché non possiamo assumere questi assiomi: pubblico è bello, cioè o pubblico brutto, e privato necessariamente migliore. Io direi, non abbiamo ovviamente i dati precisi, la nostra, essendo un'associazione, raccoglie più passioni, emozioni, osservazioni, no? E relativamente ai dati di quest'anno abbiamo anche fatto una sorta di mappatura mini tra i nostri associati. Beh, alcuni comuni, diciamo, sono stati virtuosi, penso a Bologna, non ha aumentato le rette. Il non aumentarle non vuol dire che esse fossero basse, e soprattutto partiamo dal dato che il pubblico, gli asili nido pubblici, sono insufficienti rispetto alla richiesta. Né l'Europa, che ci chiedeva il 33% dei posti per i bambini, vede esaudita questa che era una direttiva, un impegno che ci dovevamo assumere. Forse proprio con lei, Presidente Nava, ci aveva dato il livello di percentuale che siamo stati in grado di raggiungere fino a questo momento. Io non mi ricordo questo dato, ce lo abbiamo. Mi avevano detto il 18,5, ma è un dato, vede, che è talmente spezzettato per l'Italia che poi diventa poco significativo. Certo. Mi spiego, cioè probabilmente in Emilia siamo al 30, in Calabria abbiamo sì e no il 6%. E quindi come tutte le medie, come quella di Trilussa, questo è il risultato. Esatto, questo è il pollo, no? Nel piatto di tutti gli italiani. Il punto grosso, vero, è che qui mi sembra stiano sfumando alcune cose, no? Non stiamo vedendo l'asilo nido come un diritto del bambino, cioè una politica nazionale che dica: il nido è importante non solo come parcheggio, come sostegno alla famiglia, ma è importante per i fini educativi. Esatto. Che anche il percorso 03 venga iscritto nel percorso, passatemi il termine, di istruzione, un'istruzione diversa ma fondamentale. Quindi il diritto del bambino si affievolisce, non viene tenuto in alcuna considerazione. I comuni usano per buona parte ancora gli indicatori ISEE, che oggi non stanno funzionando più, perché non registrano alcune situazioni del tutto nuove, e parlo appunto della cassa integrazione o dell'improvvisa perdita di lavoro, insomma di tutto il repertorio di cui da sempre vi siete occupati, quindi che non sono la fotografia del reddito di una famiglia, non lo sono assolutamente. E infatti non le sto a dire quanti messaggi su questo punto ci stanno arrivando, naturalmente. Va assolutamente revisionato, la ministra Carrozza l'ha detto per quanto attiene all'università. Il discorso è complessivo, e i comuni, porca miseria, devono essere liberati dal patto di stabilità per almeno per l'investimento nei servizi alla prima infanzia. Non ce la faremo se no. Allora, abbiamo dato tante indicazioni anche di, come dire, politica economica e sociale a chi ci ascolta, anche se in questo momento ci rendiamo conto che magari al, come dire, a Palazzo Chigi sono impegnati su altri fronti, e però questo, siccome è un tema ricorrente, non è un'emergenza che scoppia quest'anno, non si capisce per quale motivo appunto non si riesce a dare una direzione precisa anche in termini strategici a questo ambito. Detto questo, continuiamo appunto a parlare in termini generali delle scelte fatte dalle famiglie. Il costo dell'asilo dipende dal numero di bambini che possono gestire, affitto, strutture e orari, oltre a tutte le spese di investimento. Doriana Maria Mason, presidente di Assonidi Padova, che ne pensa dello spaccato che abbiamo offerto fino a questo momento ai nostri ascoltatori, appunto questa clamorosa differenza che ancora si continua a denunciare fra il costo di una struttura pubblica, se si riesce ad entrare, ed una privata, appunto per chi se la può permettere, è enorme, un gap appunto enorme. È necessario fare degli investimenti così importanti per offrire appunto nel privato una struttura di questo genere alle famiglie? Dunque, io rappresento i nidi che sono associati alla ASCOM, e noi come minimo abbiamo l'autorizzazione comunale. Quasi tutti però hanno l'accreditamento regionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che la struttura è a norma, per cui il minimo di investimento è ovvio che bisogna averlo, per cui le porte antipanico, i bagni adatti, le metrature e tutta la struttura fatta con le protezioni, per cui gli angoli, gli spigoli, le strutture autorizzate devono essere a norma di sicurezza, devono avere i dipendenti con i titoli di studio, per cui è ovvio che il minimo di investimento per avere la sicurezza, è certo. Io sono mamma di 5 bambini, per cui ho aperto il nido perché 13 anni fa ancora, perché avevo scelto una struttura che potesse essere idonea assolutamente ai miei figli, ai due primi che avevo. E quindi naturalmente si è fatta interprete anche delle esigenze di molte mamme che conosceva, per cui ha pensato di mettere a disposizione quello che, ecco, il suo tempo. Infatti, anche allora, a parte ovviamente l'affitto e tutta la gestione, perché dipendenti, come ripeto, sono dipendenti con contratti come la FISM e altri contratti nazionali che danno una qualità e una garanzia. L'accreditamento vuol dire che la Regione Veneto è anche venuta e ha controllato la qualità, vuol dire che l'asilo è come se fosse parificato. Anche in termini quindi di rette mensili sono parificate? È abbastanza parificato. Cosa vuol dire? Che comunque c'è un controllo sull'importo delle rette. Se una famiglia avesse l'ISE superiore a quel massimo che ha gli sconti nell'asilo comunale, pagherebbe praticamente uguale proporzionale al nostro. Io parlo della realtà di Padova, che la conosco meglio. Un nido, una retta da noi costa dai 400-350 fino ai 450-500 se va via però alle 6:30 di sera. Allora, qual è il vantaggio di una famiglia che sceglie l'asilo privato? È ovvio che una famiglia che riesce a entrare perché ha il punteggio, perché mamma e papà lavorano, hanno un mise alto e a loro va bene portare il bambino dalle 8:00-8:30 alle 4:00-4:15 di pomeriggio e stanno dentro questi orari qui, l'asilo pubblico ci sta. È ovvio che sempre resta come prima scelta, perché i costi comunque di due famiglie oggi come oggi pagando un mutuo stanno dentro e riescono a pagare meno di questa questo costo base di 400-450. Certo, il tema è che però appunto non in tutte le città le esperienze come quella di Assonidi appunto sono disponibili, anche se siete già presenti in molte zone d'Italia. Siete a Torino, se non mi ricordo male, appunto. Infatti noi abbiamo una decina di province di nidi Assonidi. Noi stiamo cercando di alimentare e far associare tutti i nidi che hanno voglia di avere una certa serietà. Benissimo. E dare una certa garanzia alla famiglia e sostenibilità, sostenibilità anche economica alla famiglia. Esatto. Ci fermiamo, guardi, dottoressa Mason, ci fermiamo per qualche minuto perché abbiamo la pubblicità. Tra l'altro faceva riferimento Doriana Maria Mason appunto di Assonidi all'organizzazione che fa capo ad Assonidi, che è ASCOM, che è l'associazione, se non ho capito male, dottoressa Mason, dei commercianti, giusto? Un'organizzazione del commercio. Esatto, è l'associazione dei commercianti che abbiamo su tutta l'Italia. l'Italia. Ecco, esatto, per cui a maggior ragione è, come dire, un'esperienza che si può ripetere, anche perché c'è appunto l'associazione del commercio, appunto, che può evidentemente fare da capofila a questa iniziativa. Cercati tata per due adorabili bambini. Adorabili? Beh, questo è discutibile, devo dire. Che sia buona, sia paziente, sempre allegra, divertente. Jane, io non... Non dovrà gridare. Potevamo farci mancare Mary Poppins questa mattina nel nostro programma, in cui parliamo di nidi, asili nido, dove mandiamo i nostri bambini, in quello comunale o in quello privato. Ed è reale la differenza che viene sempre denunciata, e cioè che il privato costi molto di più del comunale, perché invece molti ascoltatori ci stanno segnalando situazioni nettamente contrapposte. Nido comunale di Cesano Boscone, che è un comune qua vicino a Milano, 700 euro al mese e un giorno di chiusura al mese per riunioni sindacali. A Castelfranco Veneto, immagino, la retta dell'asilo comunale di 607 euro circa, senza il prolungamento fino alle 18, provate a moltiplicare per 10 mesi. E poi tanti altri ascoltatori, ce ne stanno arrivando talmente tanti che non riesco neanche a leggere, ma questo ve lo voglio segnalare. Fabio: io gestisco un nido privato che, per quanto riguarda gli utili, potrebbe essere una onlus, ma costi e rette sono alti, perché ci sono rigidissimi vincoli numerici tra numero di bambini, il numero di personale, oltre a tutti gli altri costi, e oggi siamo sull'orlo della chiusura. I costi del pubblico vengono assorbiti dalla collettività. Fabio, eppure questo è vero. Allora, prima di ritornare alle nostre ospiti, Livia Azzolo di Movimento Difesa del Cittadino, Angela Nava, presidente del Coordinamento Genitori Democratici, e Doriana Maria Mason, presidente di Assoni di Padova, dalla viva voce degli ascoltatori appunto i loro commenti sul tema di oggi. Marilena da Padova, appunto, buongiorno. Buongiorno, io volevo portare la mia esperienza. Sto facendo l'inserimento al nido di un bambino di 20 mesi, mio figlio. Mm-hmm. E siamo 10 mamme, di cui due lavorano e le altre no. E allora io mi chiedo come sono fatte le graduatorie, perché conosco molte mie amiche che lavorano e sono costrette ad appoggiarsi ai nidi privati, che costano veramente molto. E i posti degli asili comunali sono occupati, diciamo un po' occupati tra parentesi, da persone che potrebbero anche non mandare i bambini al nido. Allora le graduatorie come sono fatte? Marilena, questo è un problema che ha sollevato anche la presidente del Coordinamento Genitori Democratici. Si guarda all'ISEE, l'indicatore appunto della situazione economica equivalente, che non è esattamente democratico come l'associazione. No, assolutamente, anche perché come si sa, cascano dentro chi fa lavori extra, un po' così. Ha un ISE molto basso, eccetera, poi invece chi ha necessità è costretto a rivolgersi al nido privato. Tra l'altro, a me avevano chiesto al nido privato 650 euro. Invece qua quanto va a pagare? Pago 150. Insomma, è una bella differenza, quindi vale anche un pochino la pena farsi il fegato amaro vedendo tutte le altre situazioni. No, non è vero, Marilena. Comunque grazie per avercelo segnalato. Sentiamo Ferdinando da Roma, in questo caso un papà. Buongiorno, mi sentite? Sì, sì, la sentiamo molto bene. Sì, senta, io volevo soltanto dire questo qua. Io ho un bambino di 4 anni, volevo mandarlo al nido e poi all'asilo. A Roma l'unica possibilità è andare al privato praticamente, e le posso dire che al privato si paga mediamente tra le 450 e i 650 euro al mese. Questa è la media. Io ho parlato anche col mio commercialista e mi ha sconsigliato assolutamente di mandarcelo, perché oggi quell'importo rientra in quello che si chiama il redditometro, e allora, ed è considerato quasi un bene di lusso. Vabbè. Io oggi con un po' di sacrifici riuscirei anche a mandarlo, ma pagando quell'importo praticamente uscirei totalmente dai parametri del redditometro. Ferdinando, questa è una scelta che attiene alle sue esigenze familiari. Stendo un velo pietoso sul commento del commercialista, perché mi viene da dire, vabbè, se lei ha un reddito che le fa... Che le consente di poter mandare il bambino appunto al nido, e qua entro anche in un commento che invece ci arriva da parte di un ascoltatore, che dice: non è una necessità il nido per il bambino, ma è una necessità per i genitori, non è un diritto per il bambino. Anche qua stiamo invece completamente, secondo me, fuori dai binari, perché i bambini hanno tutto il diritto di iniziare a socializzare da molto presto, piuttosto che magari stare in casa con delle persone anziane che fanno un po' più di difficoltà, pur magari prendendo prendendosi cura dei propri nipotini volentieri. Detto questo, abbiamo aperto tante parentesi, poi vado anche a Federico da Milano, ma ritornerei per un attimo a Livia Zollo per capire se nel monitoraggio fatto da Movimento Difesa del Cittadino avete riscontrato che anche nell'ambito comunale si arriva a delle cifre di rette veramente pazzesche, come quelle che ci hanno raccontato gli ascoltatori. Guardi, però mi permetto, in quanto donna, di fare questa parentesi, hai ascoltato l'ultimo commento, perché l'inadeguato sviluppo dei servizi per la prima infanzia è connessa alla visione tradizionale che abbiamo in Italia della cura dei bambini, che è delegata esclusivamente alla famiglia. Invece, anche da molto piccoli, i bambini hanno diritto alla socializzazione e soprattutto ad uno sviluppo di autonomia, che in casa con babysitter e con nonni è non sempre garantito. Chiusa parentesi. Esatto, no, mamma, ma io guardi, per carità. Poi il mondo è bello perché vario, siamo pronti a raccogliere tutti i commenti, ognuno ha anche appunto le necessità che ha, magari più scomodo andare al nido, è più facile portarlo dalla nonna che abita di fronte a casa, ma questo ci sta tutto, ci mancherebbe altro. Altro discorso è invece il diritto del bambino ad imparare fin da subito appunto a stare nel mondo. Chiusa parentesi. Allora Zollo invece chiusa per ritorniamo ai nostri costi, alle maxi rette, perché abbiamo fatto anche una sorta di classifica. Noi dal nostro monitoraggio emerge che Latina è una delle città dove si paga di meno, circa 36 euro al mese addirittura, mentre al nord abbiamo visto che le città tipo come Udine sono sicuramente le più care, perché poi si va a pagare un costo totale di 11 mesi 7.000 euro. 11 mesi lì dove poi luglio è aperto il nido, perché molto spesso invece luglio è il mese critico dove i nidi pubblici non sempre garantiscono il servizio. Allora, le città virtuose ci risultano anche a noi, come ha detto la Presidentessa, sicuramente Bologna e Perugia, dove addirittura in base alla fascia di reddito le famiglie che più hanno difficoltà possono usufruire addirittura di un'esenzione, quindi pagare zero per mantenere i propri figli al nido. Angela Nava, coordinamento genitori democratici, da cosa vuole cominciare? Dal redditometro o dall'ISEE che da riformulare? Per la verità ci si sta lavorando nella sua riorganizzazione e ammodernamento, diciamo, di questo strumento per valutare la condizione economica delle famiglie, soprattutto per quelle famiglie che devono avere accesso a determinate prestazioni, come appunto il nido. Mi sembra che sulla riforma dell'ISEE ci sia poco da dire, nel senso che è una necessità oramai conclamata, insomma, perché crea sacche di ingiustizia che sono veramente palesi, cioè queste telefonate lo rivelano. Anch'io ribadirei appunto il segno del diritto del bambino, perché in questo paese poi, e lo stiamo vedendo a tutti i livelli, lo pagano comunque, a pagare la crisi maggiormente sono i minori a tutti i livelli. Il terzo punto, quest'Italia a macchia di leopardo. Quest'Italia a macchia di leopardo, che ora ci può essere l'asilo privato il migliore del mondo, quello pubblico migliore del mondo, quello che però manca a me genitore, oltre la certezza appunto di poter accedere a questo servizio, è una sorta di uniformità delle prestazioni. Manca una legge nazionale che dia, come devo dire, i livelli essenziali di prestazione. Esemplifico, in una regione forse la puericultrice sarà diplomata, in un'altra questo requisito non è richiesto, cioè manca una sorta di garanzia anche a me genitore di dove mando mio figlio e cosa può aspettarsi oltretutto dal nido, oltre ad essere parcheggiato. Guardi, esigenza che capisco molto bene e che non criminalizzo, aggiungo una cosa, che questo sì è l'elemento che ci ha dato tanta pena, che in alcuni casi quest'anno paradossalmente l'offerta è superiore alla domanda. Che diciamo vuol dire? Che le famiglie non riescono a... Che non lo ipotizzano neanche, perché non rientra, pubblico o privato che sia, nel loro budget di spesa. Tra l'altro stavo pensando, prima facevo un ragionamento, un legame che forse può anche non essere pertinente, ma allora, molte famiglie pagano il mutuo della casa, per le persone che non riescono a pagarlo da 4-5 anni l'industria di settore, quindi le banche italiane, con la collaborazione dell'Associazione dei Consumatori, hanno messo in piedi questo meccanismo meccanismo che si chiama moratoria per permettere, c'è anche un fondo di solidarietà per permettere alle famiglie che non ci riescono di sospendere temporaneamente appunto la rata. Non si capisce per un ambito che è in movimento costante, che è quello dei figli che nascono sempre, non ci sia, come giustamente lei diceva, un'iniziativa di sistema uniforme su tutto il territorio che garantisca un adeguato standard appunto di servizi e assistenza alle famiglie. Non lo so se ho fatto una considerazione pertinente, però mi veniva in mente l'ho voluta condividere perché con poi voi. È un indirizzo di politica generale, è una scelta del paese. Infatti. Allora, sentiamo, visto che i suggerimenti perché in viaggio non sono ancora pronti, sentiamo Federico da Milano, visto che ho stuzzicato gli ascoltatori con questa riforma tedesca di cui non ho ancora letto le caratteristiche, ma Federico ha un'idea su ciò. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Breve parentesi, io allibisco sentendo i vostri ospiti che mi vengono a dire che il nido privato, che il nido pubblico costa meno del privato. No, ma l'abbiamo detto che non è vero. Mediamente così, che 36 euro al mese vuol dire che gli altri ce li mettono i contribuenti. Vabbè. Chiusa la parentesi, questo però andava detto. Chiusa la parentesi, ma io leggo, sì, io so di questa cosa, leggo sui giornali tedeschi che innanzitutto premessa, c'è una motivazione economica in questa politica tedesca, che volete, i loro governi non si vergognano a occuparsi di problemi economici. La motivazione economica è che c'è scarsità di manodopera in Germania, tant'è vero che stanno considerando che gli asili nido debbano essere vicino ai posti di lavoro e non vicino all'abitazione. Quindi lei dice è un modo per riportare le donne nel mercato del lavoro. Altrimenti ne rimangono escluse. Insomma, tanto di cappello comunque che le si incentiva a farlo attraverso queste modalità. Praticamente l'iniziativa è questa. Dal 1 agosto l'iniziativa tedesca si chiama Un posto all'asilo per ogni bambino nato, 778.000 in tutto per soddisfare le richieste delle famiglie, 200.000 in più rispetto all'anno precedente, e se il piccolo non rientra nella graduatoria, la legge prevede addirittura che i genitori possano fare causa al comune, il quale dovrà provvedere a trovare una sistemazione entro 3 mesi. Questa riforma è stata portata avanti dalla ministra della famiglia, degli anziani, delle donne e dei giovani, c'è proprio un ministero incaricato di questo, Christina Schröders, che è una giovane donna di 35 anni. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Asilo nido, quanto mi costi, pubblico, comunale, qua stamattina abbiamo sfatato molti miti, molte false appunto convinzioni, perché a quanto pare molti asili nido comunali sono molto più onerosi delle strutture private, e infatti c'è Antonio che ci scrive: mi viene da pensare beati tutti quelli che hanno scritto fino ad ora a Villa Santa, provincia di Monza Brianza, asilo nido comunale 650 euro mensili, mentre il privato 750-800, quindi c'è, insomma, Michele, che è il nostro ascoltatore, appunto evidentemente denuncia una differenza scarsissima fra le due strutture. Paolo da Milano mette in evidenza ancora un ulteriore problema. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, dovrei essere io in linea. Sì, c'è lei. Io mettevo in evidenza, a prescindere che sono sotto redditometro, sono sposato, quando mi hanno fatto redditometro 2007 ero disoccupato, non ho avuto diritto alla disoccupazione perché prima ero anche proprio con un locale, adesso sono a partita IVA come professore, non per scelta ma per forza, sono sposato e sono nell'impossibilità di avere assegni familiari e aiuti, cosa che viene data comunque alle coppie di fatto. A dei bambini che hanno bisogno di andare al nido, Paolo? Due ne ho avuti, uno lo sta ancora facendo. Vado al privato? No, perché non c'è neanche il pubblico dove sono io. Ho capito. Ma c'è proprio questa disparità, trovo, tra chi è convive e chi ha una famiglia. Io purtroppo non ho l'aiuto dei miei genitori, mia moglie è paraguayana, tanto meno, che sono dalla parte opposta del mondo. E mi trovo che non ho diritto agli assegni familiari, non ho diritto alle disoccupazioni, a nient'altro, non ho malattie né niente, non posso prendere e non vengo neanche aiutato con due figli. Paolo, lo so, guardi, la sua è una delle, come dire, milioni di situazioni che potremmo denunciare questa mattina a Salvadanaio. Detto questo, ritorniamo un po' sul tema. Allora, Claudia ci scrive: molte mamme che non lavorano sono però in cerca di lavoro. Uno stato serio, Massimo ci scrive che si differenzia, uno stato serio si differenzia per i servizi sociali che mette a disposizione per i propri cittadini. Questa purtroppo è la nostra Italia. A che cosa andiamo di nuovo al tema del privato? Doriana Maria Mason, Assonidi Padova, appunto, ha sentito appunto anche tutte le, come dire, situazioni che sono emerse dalle testimonianze dei nostri ascoltatori, il tema dell'ISEE, il tema appunto del privato che invece non è sempre più appunto economicamente adesso non mi viene la parola, più alto appunto rispetto al pubblico. Quali riflessioni appunto le sono venute in mente sentendo questi allora, racconti? Sì, allora noi della ASCON, della Assonidi, cerchiamo appunto di dare una guida a tutti questi nidi privati. Il problema di tutta l'Italia cosa c'è? È che c'è tanta carne al fuoco anche nel mondo del privato, per cui l'importante per una famiglia che ci ascolta adesso è chiedere l'autorizzazione come minimo di un nido, della struttura che frequenta o che si deve iscrivere, chiedere la carta dei servizi se ce l'ha, perché un nido accreditato dalla regione ha anche l'obbligo della carta dei servizi, così un genitore legge e capisce dov'è che sta portando il bambino. Questo perché? Perché tante strutture aprono in forma associativa. Anch'io sono un'associazione, mio nido è un'associazione, però è nata per venire incontro alla famiglia, per cui con l'idea di formare proprio un'associazione. Per cui noi della ASCON, della Assonidi, abbiamo preparato un vademecum che potete vedere nel sito della Assonidi, proprio per spiegare ai genitori come fare a scegliere pubblico, privato, che cosa vuol dire portare 2 ore in una ludoteca. Il baby parking non esiste, fino a 3 anni il bambino non può essere parcheggiato perché è un bambino piccolo, che o all'IKEA o altro centro commerciale che la mamma lascia quella mezz'ora, il bambino deve essere almeno da 4-5 anni all'insù. Per cui tutelare la famiglia vuol dire anche informare bene la famiglia italiana di cosa si va incontro per iscrivere un bambino al nido privato. E bisogna cercare di essere come minimo professionali come se al pubblico. La differenza è che bisogna anche cercare di essere elastici, per cui dare l'elasticità che una famiglia oggi ha un lavoro, la mamma perde il lavoro, lo trova part time, questo lo trova turni. Ha ragione, non è un mondo o bianco o è un nero, è un mondo popolato di famiglie, ognuna delle quali ha una storia, un vissuto, un'esigenza, un'esperienza appunto diverse, come tali tutte quante vanno rispettate. Vorrei sentire l'ultima telefonata, che è quella di Guido da Treviso, poi vado alle conclusioni con Angela Nava. Guido, buongiorno. Buongiorno. Perché qua introduce anche un po' il tema del welfare aziendale, i nidi nelle aziende appunto, ma non sempre le mamme sono proprio favorevoli a queste opportunità. Ci racconti? Sì, noi non riguarda specificatamente il nido nelle aziende, in quanto noi siamo un'azienda piuttosto piccola che non aveva la possibilità di creare un nido, comunque un asilo all'interno della nostra realtà aziendale. Però quello per cui ho chiamato è perché noi appunto abbiamo, attraverso la collaborazione con una cooperativa del nostro territorio, lanciato un progetto che si chiama Azienda Amica, dove noi attraverso il nostro indotto, noi facciamo arredamento, sedie, sgabelli, poltrone, perciò attraverso una piccola parte del nostro indotto finanziamo 5 asili nido gestiti da questa cooperativa sociale. E praticamente questi nidi sono, come dire, frequentati dai figli delle vostre dipendenti o dei dipendenti del vostro indotto, no? No, noi non abbiamo nessuna, cioè questi asili sono sparsi nella provincia di Treviso, Vicenza e Venezia, sono 5 asili. E noi è un progetto che abbiamo pensato assieme a questa cooperativa proprio per promuovere il rapporto tra azienda e sociale. Guido, noi speriamo che naturalmente le condizioni economiche del paese, facendo tutti gli scongiuri, consentino a persone come lei appunto di continuare a sostenere questi servizi sul territorio, territorio laddove appunto il privato non riesce a far più quasi nulla e il pubblico non riesce più a far quasi nulla e il privato esatto. Deve spesso sopperire. Chiudo con Angela Nava, appunto ci manca meno di un minuto, presidente appunto del coordinamento genitori democratici, però anche questo appunto non è vero, non dobbiamo immaginare un mondo dove il privato faccia tutto e il pubblico scompaia, forse il pubblico deve tornare a fare un po' più il suo e avere, speriamo. Il pubblico deve ritrovare anche la sua dignità, il pubblico deve ritrovare le sue regole, il pubblico deve ritrovare, mi perdoni, la sua bellezza, l'infanzia è bene pubblico, una, ripeto, legislazione nazionale chiara, ci sembra assolutamente necessaria, dopodiché le esperienze di privato saranno tutte ben accette. Certo. Si possono anche non chiedere grandissimi investimenti, le esigenze, come lei diceva, sono molteplici, abbiamo bisogno anche forse di servizi Benissimo. Alternativi. Devo chiudere, di questi servizi alternativi e parleremo in un'altra puntata. Grazie a tutti, a domani.